Sono al telefono con Nicola Gabella, vicepresidente di WIL-DM. Buongiorno Nicola, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora Nicola, partiamo un po' dal principio. Come è iniziata la tua esperienza con WIL-DM? Ma la mia esperienza con l'UIL-DM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è iniziata ormai più di 10 anni fa, perché, come spesso accade, per le vicende, diciamo, familiari ci si avvicina a queste realtà. Realtà associative che si occupano di queste patologie neuromuscolari, malattie rare, malattie genetiche rare, insomma, quindi la vita di famiglia, vita di casa a volte ci chiede di incontrare queste realtà, le esperienze personali, e quindi ci si avvicina e si decide anche come starci dentro certe situazioni, in modo anche propositivo, in modo attivo, insomma. Quindi per via di esperienze familiari abbiamo incontrato la WIL-DM e abbiamo iniziato a camminare con loro. A proposito di attività, so che fino al 7 luglio è attivo un crowdfunding, che si chiama Tiriamoci Su. Ci puoi raccontare, Nicola, in cosa consiste e come si può partecipare? Certo, molto volentieri. Il crowdfunding è una forma di raccolta fondi, no? Crow, folla, popolo, funding, raccolta, e quindi raccolta dal popolo, raccolta dalla gente. E noi vogliamo, insomma, visto anche l'anno che abbiamo passato di difficoltà, come poi tante realtà associative, ma insomma anche noi abbiamo avuto difficoltà nel non poter fare eventi o banchetti, quindi raccogliere fondi, abbiamo pensato di attivare questo crowdfunding per sostenere in particolare un progetto di assistenza psicologica per le persone che affette da queste patologie, per i loro familiari. Quindi questo crowdfunding che vuole sostenere questo progetto. E quindi siamo su Idea Ginger, una piattaforma online, e andando su Idea Ginger si può cercare il nostro progetto, tiriamoci su WILM e andare a leggere quello che abbiamo scritto, il nostro progetto, andare a vedere il video, vedere le ricompense che abbiamo previsto, anche molto belle, molto gustose, e fare una donazione, calo grande, quello che uno può ovviamente, insomma, nelle possibilità che ci sono, però ogni donazione per noi può essere utile, è utile per poter raggiungere il nostro obiettivo, insomma, ecco, molto preziosa. So che ci sarà anche un pannello del grazie per chi appunto vi sosterrà. Certo, perché noi vogliamo che questo crowdfunding, oltre a raccogliere fondi, che è l'obiettivo, ma non è l'unico, noi vogliamo incontrare e conoscere nuovi amici, cioè questo crowdfunding ci dà l'opportunità di farci conoscere, di raccontare chi è WILM, qual è l'obiettivo, qual è la mission di WILM. E quindi il pannello del grazie è un modo anche per ricordare, quindi invitare le persone nella nostra sede in via San Leonardo 24, incontrarle, magari prendere un caffè, fare due chiacchiere, fargli firmare su questo pannello del grazie, fare firmare, lasciare la propria firma, il proprio nome, così potremo ricordare nei mesi, negli anni futuri, le persone che in modo generoso ci hanno sostenuto. Ecco, un modo per creare così, una comunità intorno a noi, conoscere amici nuovi con cui poi magari camminare insieme anche. Perfetto, Nicola, io ti ringrazio per averci raccontato la tua esperienza e per averci parlato anche un po' meglio su come possiamo sostenervi e aiutarmi anche tramite appunto questo crowdfunding Tiriamoci Su. Grazie ancora a Nicola Gabella. Io ringrazio voi per la vostra disponibilità e attenzione, e grazie a tutte le persone che vorranno sostenerci.